per distrazione giro e giro intorno un cerchio, non so che dire. Che distrazione si presenta sfatta a terra, ma cosa fare? Lo sa finita e tu puoi andare via per poi tornare, credo. Gira, gira, presenta spazio a terra, ma cosa fare? Chiedo